vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Della sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Buonasera cari ascoltatori, iniziamo stasera una nuova trasmissione, il Panda Yogico. Con questa trasmissione ci proponiamo di iniziare un percorso nel mondo yogico, o meglio, come mi piace dire, nel mondo con un approccio yogico, in quanto lo yoga comprende tutti gli aspetti del nostro vivere quotidiano. Diciamo, lo yoga non è un'attività di svago, non è un'attività fisica alle quali si dedicano poche ore settimanali, ma è un modo di affrontare la vita, di lavorare sul rapporto con se stessi e insomma sulla comprensione del mondo nel quale siamo immersi. Come alle volte mi suggerisce il mio istinto, lo yoga ci consente e ci aiuta a sopravvivere alla vita. Date queste premesse, la nostra idea su questo programma che in specifico verrà trasmesso ogni lunedì, il primo lunedì del mese verrà trasmessa una nuova puntata che verrà poi replicata nei lunedì successivi. Allora, come dicevo, l'idea alla base di questa trasmissione non è quella di ripetere e riportare solo e principalmente quanto scritto riguardo allo yoga nei testi antichi o moderni che siano, sacri e o esclusivamente didattici, ma è principalmente quello di condividere tutto ciò che è frutto della nostra esperienza quotidiana, nella sperimentazione dello yoga, di tutte le pratiche che comprende e nella comprensione e consapevolezza appunto della nostra vita, del mondo, esagerando, diciamo, dell'universo. Partiamo quindi provando a definire cosa è lo yoga. Di definizioni nei testi ce ne sono un'infinità. Noi proveremo a definirlo, definire cosa è lo yoga qui ed ora, nel senso che quello che noi intendiamo per yoga non è, non sarà e non è mai stato ciò che magari si intende in India, si intende in tutta l'Asia, perché viviamo in mondi che erano e sono, nonostante tutto, ancora diversi. Abbiamo un approccio diverso, abbiamo una struttura fisica diversa, capacità fisiche diverse, e quindi non esiste, o quantomeno non è possibile definire universalmente lo yoga, ma appunto è possibile definire cosa può rientrare nell'ambito yogico nel luogo e nel tempo in cui si vive. Quindi lo yoga, diciamo, può essere visto come un vestito che si adegua alla struttura e al corpo di chi lo indossa. Volendo appunto non portare l'attenzione su, come dicevo prima, su quanto scritto nei testi, suggerisco una definizione di yoga che mi è, diciamo, apparsa in mente qualche giorno fa come proprio un'intuizione del momento. Lo yoga, dato che dicevamo prima, che riguarda, diciamo, il cammino della vita, lo vedo come essendo appunto la vita un cammino, come un mezzo con il quale percorrere questo cammino, con il quale compiere questo viaggio dall'inizio al mentre all'inevitabile fine. Qualunque cammino lo si può percorrere, come ben sappiamo, in vari modi, a piedi, in macchina, in aereo. Ogni strumento con il quale ci spostiamo ha delle caratteristiche, ci consente di, diciamo, di usufruire di vantaggi e svantaggi in un certo senso. Con i mezzi quali aereo e auto, come ben sappiamo, ci si sposta velocemente da una parte all'altra, si arriva nel punto finale con velocità, però inevitabilmente perdiamo tutto ciò che è nel mezzo, tutto ciò che in realtà poi riempie la vita, riempie il viaggio. Camminando a piedi, invece, ci dobbiamo prendere il nostro tempo, ci vuole più lentezza, ci vuole più tempo, ma abbiamo la possibilità di sperimentare, vedere e capire e comprendere un'infinità di particolari che perderemmo con altri mezzi. E lo yoga è un po' questo: è attraversare l'esistenza, la vita, almeno, diciamo, la vita come ci appare nella modalità più concreta. Perché anche questo sarà un argomento che magari poi affronteremo un po' alla volta in futuro. Diciamo, la vita, noi, diciamo, la percepiamo e la vediamo nell'aspetto fisico e carnale in maniera immediata, ma in realtà ci sono altri ambiti nei quali la nostra vita si esplica e lungo i quali viaggiamo, che sono aspetti più sottili, più alti e più, diciamo, difficilmente da raggiungere come consapevolezza. Quindi dicevo, lo yoga è un po' come spostarsi a piedi, è un po' come, diciamo, arrivare in cima a una montagna, oppure anzi no, mi viene in mente il cammino di Santiago. Poniamo che il cammino di Santiago lo si può fare, lo si fa in auto, si parte da uno dei vari punti, insomma, dai quali questo percorso fisico e spirituale inizia e si arriva a Santiago. Arrivandoci eventualmente in macchina, cioè, certo, si può dire di aver fatto il cammino, ma non si è vissuto nulla in realtà del cammino, non si è vissuto lo sforzo fisico per arrivarci, non ci si è fisicamente e mentalmente rimodellati attraverso il viaggio, ci si è semplicemente spostati da un punto all'altro. Lo stesso è con lo yoga. Lo yoga, appunto, è fare il cammino di Santiago a piedi. Alle volte, dato che lo yoga ci mette anche di fronte alle nostre difficoltà, è anche farlo più che a piedi con le ginocchia, camminando con le ginocchia sui ceci, perché lo yoga. ci mette di fronte a noi stessi, ci pone quesiti, ci pone domande, ci mette in difficoltà, mostrandoci la vera, diciamo, essenza, la vera natura di noi stessi. E facendo appunto tutto questo cammino con lentezza e a piedi, riusciamo, se ne abbiamo la forza, se ne abbiamo la volontà e la capacità, capacità che va allenata ovviamente, abbiamo appunto la possibilità di sperimentare, di cogliere ogni particolare di noi stessi, del mondo. Ci rendiamo conto che ci si aprono orizzonti, possibilità e mondi inesplorati, inattesi. Ciò che non immaginavamo il giorno prima, dopo diventa la cosa più naturale che ci sia. Cominciamo a liberarci dalle sovrastrutture mentali, dai blocchi fisici, cominciamo a renderci conto che in un certo senso noi siamo anche un soggetto passivo rispetto al mondo, nel senso che quando ci siamo liberati di tutto, il mondo, l'universo ci propone in maniera naturale e automatica tanti altri stimoli che non avevamo idea che potessero esistere. Quindi, diciamo, il mio punto di vista rispetto allo yoga è quello di andare contro il classico motto del volere e potere, che è un motto che, insomma, porta, secondo me, anche a un atteggiamento in un certo senso violento rispetto alla vita e rispetto anche agli altri. Volere non è potere, volere è riuscire a volersi capire. Poi quello che si può, quello che non si può, non si può. Non dobbiamo per forza raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi, perché magari non sono gli obiettivi nostri. Appunto, è come il cammino a piedi. Magari decidiamo di partire, di andare a piedi da un luogo all'altro, poi durante il cammino troviamo un sentiero appunto inatteso, un sentiero che non sapevamo che esistesse, non l'avevamo visto in precedenza sulle mappe, sulla cartina. Lo scopriamo al momento e magari decidiamo di incamminarci in quest'altro sentiero e lì possiamo scoprire un mondo fatato che era inatteso e questo appunto è un po' lo yoga. E compiere un percorso partendo dall'interno di noi stessi e arrivando dappertutto, arrivando in un noi stessi che si amplia eventualmente anche all'infinito. Certo, tutto questo non è un qualcosa che si raggiunge dalla sera alla mattina, né si raggiunge semplicemente facendo esercizi fisici, ma si raggiunge lavorando sulla mente, sul corpo e appunto, come dicevo prima, sull'approccio quotidiano a tutto ciò a cui siamo esposti, a tutto ciò nel quale siamo immersi, perché noi siamo immersi nel mondo come un pesce immerso nell'acqua. Noi, come dicevo prima, siamo in un certo senso passivi e noi dobbiamo adeguarci al mondo e adeguare per quanto possibile il mondo a noi, ma sempre partendo dalla consapevolezza che non tutto ci è dato, non tutto ci è dovuto e non per forza dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. A questo punto, proporrei qualche minuto, diciamo, di stacco inserendo un mantra cantato. Vi suggerisco di ascoltarlo, ad occhi chiusi, lasciandovi andare alle vibrazioni, alla sonorità e alle parole. E vi suggerisco in particolare di prestare attenzione e ascoltare i suoni di fondo, le vibrazioni di fondo e cercare di percepire tutto ciò all'interno del vostro corpo. Non lo fate però in maniera eccessiva da rilassarvi così tanto e addormentarvi perché poi dopo dobbiamo risentirci per la seconda parte della puntata. Buon ascolto. Chidananda Shivoham Shivoham Mano Bodhyam Karachitani Naam Natasro sopraggive na giacana netre na ciavio ma pomi na te giona vaiu ci dana na rupa ci voam ci voam ci dana na rupa ci voam ci voam na tra prana sagno na va pancia vaiu na va sapta da tu na va pancia kosha na va pani pada na tra pasta paiu ci dana na rupa ci voam ci voam ci dana na rupa ci voam ci voam na medve sanago na me Madonna va me ne va mazzaria bava na tarmo na charto na camo na moksha chidana na rupa shivoham shivoham chidana Rupa, Shivoham, Shivoham. Na punyam, na papam, na sakyam, na dukam. Na mantro, na tirtam, na meda, na yagna. Aham bhojanam ne. Bhojam na bhokta chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham namrotyor na shanka namedra Neva me neva matana janma na bandhur na mitram guru neva shishya chidananda rupa shivoham shivoham chidananda Narupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakara Rupo Viburvyapya Sarvatra Sarvendriyani Sadamme Samadva Na muktir na banda chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham Ah, no. Cari ascoltatori e ascoltatrici, spero che il mantra cantato che abbiamo proposto vi sia piaciuto, che abbiate anche, se minimamente, potuto, diciamo, godere delle vibrazioni e delle sonorità che vi abbiamo proposto. E in questa seconda parte, diamo giusto una brevissima carrellata di ciò che nei anni, nei millenni, in realtà lo yoga è stato ed è secondo i testi classici. La prima volta che il termine yoga viene, diciamo, riportato ed è stato scritto è circa il 3000 avanti Cristo, più o meno, in quei testi sacri chiamati Veda, e precisamente nel Rig Veda. Il Rig Veda è uno dei testi de sacri della popolazione dravidica che abitava le zone della valle dell'Indo prima che fossero invase dagli Arya. La popolazione dravidica era una popolazione stanziale dedita all'agricoltura. Probabilmente, a quanto si pare, aveva anche una struttura matriarcale. Viene poi, diciamo, spodestata dalla popolazione, dalla razza Aria, che era un popolo invece guerriero. Fino a quel momento, erano in continuo spostamento, finché appunto hanno trovato, diciamo, un territorio fiorente, un territorio nel quale hanno deciso di stabilirsi, e appunto la loro indole di popolazione guerriera li ha portati a, diciamo, a spodestare e a, diciamo, usare inevitabilmente violenza contro le popolazioni che erano già lì presenti. E quindi, diciamo, si è avviato quel periodo storico nel quale si sono fuse varie discipline, varie religioni, varie credenze, e un frutto appunto è stato questo dei Veda, nel quale il termine yoga veniva, diciamo, è stato ritrovato, non però nel senso di disciplina come, diciamo, inteso oggi, ma semplicemente era un termine che aveva il significato di unire, unione. E i Veda facevano riferimento sostanzialmente a delle cerimonie sacrificali, a dei riti nei quali i sacerdoti, quella che poi è diventata la casta dei Bramini, che appunto aveva il potere, aveva la conoscenza, compiva appunto le proprie cerimonie e questi sacrifici, nei quali appunto compariva anche il termine yoga. Successivamente il termine yoga è comparso, insomma, in altri testi, in altre discipline, in altre modalità, fino ad arrivare, facciamo un passaggio veloce anche perché, diciamo, il tempo comincia a stringere, fino ad arrivare più o meno all'epoca medievale, nella quale anche attraverso il tantra, del quale avremo tempo e piacere di parlare in futuro, attraverso il tantra arriviamo a quello che oggi conosciamo come Hatha Yoga. Intorno tra il 1100 più o meno il 1400 rinvengono i testi classici dell'Hatha Yoga, che sono l'Hatha Yoga Pradipika, la Shiva Samhita e Garanda Samhita. E, diciamo, in questi testi viene un po' elencato tutto ciò che oggi rientra nella definizione di Hatha Yoga, a parte ovviamente, per chi l'ha sentito nominare, i famosi Sutra di Patanjali, che definiscono appunto anche lì fondamentalmente ciò che intendiamo oggi in Occidente come yoga. Detto questo, spero che ciò che, diciamo, vi abbiamo proposto stasera vi abbia interessato, vi sia piaciuto, vi abbia, diciamo, offerto un minimo di interesse per una nuova prospettiva, una nuova curiosità, e saluto tutti e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, proponendovi la sigla finale, L'era del cinghiale bianco di Battiato, cosa sulla quale anche in futuro avremo modo di dire tante, tante storie interessanti. Alla prossima e buona serata.